compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nel Sertao con Stefano Morici. Oggi si viaggia sulle tracce di un bandito, che emozione! Il mio compagno è Stefano Morigi e mi sta per portare in un Brasile poco conosciuto ma decisamente affascinante, forse anche perché pericoloso, il Sertao. Il Sertao, parola della lingua portoghese che probabilmente deriva da desertao, uguale grande deserto, è una regione semiarida che abbraccia molti stati del nord-est brasiliano e la parte nord dello stato di Minas Gerais. Geograficamente il Sertao consiste principalmente di bassopiani. La maggior parte dei suoi territori si trova ad un'altitudine compresa tra 200 e 500 metri sul livello del mare, con quote più elevate rappresentate sul confine orientale dal planalto da Borborema, dove si incontra con la regione subumida detta Agreste, dalla serra da Ibiapaba nel Ceará occidentale e dal Cerro do Periquito nel Pernambuco centrale. La storia di questo viaggio comincia da Salvador, Salvador de Bahia ovviamente, in Brasile. Era il luglio del 2004 e alloggiavo al 48 di Rua Direita do Santo Antônio, presso una posada, ovvero una sorta di quelli che noi usiamo chiamare bed and breakfast, che mi aveva suggerito l'amico compianto Sergio Bonelli, anche lui grande conoscitore del Brasile, che ha saputo rileggere e interpretare meravigliosamente attraverso i fumetti di Mister No, che hanno occupato gran parte delle ore di divertimento anche della mia infanzia. Questa posada si trovava e si trova ancora adesso a pochi passi dal Pelourinho, l'anima buia, il cuore pulsante della città, ma del Brasile tutto e della sua storia. È noto che Pelourinho significa luogo delle frustate, era il luogo in cui venivano portati gli schiavi, venivano appunto frustati e venduti al miglior offerente, era la forza umana che proveniva dal continente nero e che serviva per le piantagioni del nuovo mondo, sempre più in crescita e sempre più sfruttate dalle potenze della vecchia Europa. Oggi quella posada, prosegue Stefano, si chiama Praça José de Alencar e al posto del tragico luogo dove tanta sofferenza è stata consumata si trova la Fundação Casa de Jorge Amado, cioè la fondazione che ospita le memorie del grande scrittore. E perché Morigi si trovava a Bahia? Mi trovavo a Bahia perché non come turista. Ero lì in una sorta di missione accademica, dovevo fare delle ricerche e nella fattispecie ero sulle tracce di alcuni banditi. Niente di particolarmente pericoloso perché erano ormai quasi tutti morti, loro e quelli che a loro avevano dato la caccia, se non qualche superstite, ma la loro forma di combattimento, la loro idea di violenza e di ribellione ai poteri costituiti e alla stessa corruzione della politica della fine dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento rappresentava per me un modello culturale attraverso cui rileggere non poche delle categorie del nostro vecchio mondo. Quindi era l'opportunità di andare nel nuovo mondo per capire qualcosa di più del nostro stesso modo di agire e di pensare, anche il rapporto appunto con la violenza e con il potere. Il viaggio si fa sempre più interessante. Stefano, prima di proseguire, vuole fare una tappa alla spiaggia di Itapoa, una delle mete preferite dei bahiani in cerca di un po' di riposo e di quattro chiacchiere tra amici, magari al tramonto. Di questa piacevole consuetudine, tra gli altri, Vinicius de Moraes ha saputo fare poesia. Alla musica ha pensato Antonio Pecifigliu, più noto come Toquinho. Depois da praça caí-me, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Non ero solo. Con me era venuto anche mio padre, non già perché si occupi di questo tipo di ricerche, ma perché il viaggio sarebbe stato lungo, Bahia Salvador era solo l'inizio, e pensava che quel tragitto sarebbe stato meglio compierlo in due, anche per ragioni di sicurezza personale. Avremmo fatto percorso strade al di fuori dagli itinerari classici del turismo o da quel Brasile che di solito si vede rappresentato in maniera anche un po' pittoresca da alcune foto, da alcuni video malfatti nel Sambódromo di Rio, piuttosto anche che nelle vie di Salvador, e dunque essere in due sarebbe stato sicuramente un conforto oltre che un sostegno alle difficoltà che questa ricerca doveva comportare. Seguo ogni parola di Stefano perché voglio capirci un po' di più di questo Brasile insolito e a quanto pare anche pericolosamente eccitante. Perché Bahia? Effettivamente avremmo potuto recarci immediatamente sul teatro degli eventi, che è il Nord-Est, i cinque stati colpiti dalle violenti secche che mettono a dura prova la già povera popolazione locale. In realtà a Bahia avevo due appuntamenti, uno con il direttore della più importante biblioteca locale che mi avrebbe mostrato i giornali dell'epoca che ricostruivano le cronache, gli eventi che scandivano le imprese di questi cangaceiros, così si chiamavano questi banditi, ma soprattutto, ancora più interessante dal mio punto di vista, era l'appuntamento con la direzione del Museo Etnografico e Antropologico dell'Istituto Niña Rodríguez, appunto di Salvador, luogo in cui per molti anni erano state custodite le teste mozzate di questi banditi, una volta che presi, uccisi e sconfitti, erano state esibite anche per dimostrare che il flagello del cangasso era stato finalmente sconfitto dall'organizzazione politica capeggiata da Getúlio Vargas, anche perché, come capita spesso in questi banditi che sconfinano tra fatti e leggendi, più volte si era annunciata la morte del grande Virgulino Ferreira da Silva, così si chiamava il bandito, ma poi riappariva ora in un posto, ora nell'altro, colpendo come solo lui sapeva fare. Ma c'era anche un interesse scientifico in questo appuntamento al museo etnografico antropologico di Salvador, perché l'altra ragione per cui queste teste venivano conservate era che all'epoca della prima e della seconda repubblica del Brasile, quindi sostanzialmente i primi decenni del secolo XX, di gran moda andava la criminologia che noi conosciamo come lombrosiana, la criminologia positivista, e quindi quelle teste dovevano essere anche la prova che quei delinquenti fossero effettivamente metricamente portatori di quella naturessa delinquencial, cioè di quella natura criminale che li aveva effettivamente portati a compiere i misfatti di cui erano stati protagonisti. Ora ci meritiamo un po' di riposo tra una stazione di polizia e una ricerca in biblioteca tra giornali dei primi del Novecento. Tanto basta per ristorarsi con una cachaça e riassaporare le radici musicali del Brasile in una virtuosa improvvisazione di coro. Il viaggio di Stefano sta per spostarsi altrove, complice una mail. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nel Sertão con Stefano Morici. Tutto comincia a Bahia, ma non è lì che si ferma. Sono con Stefano Morici in viaggio verso un Brasile di cui difficilmente si parla, il Sertão. a spingerlo da quelle parti un bandito, Virgolino Ferreira da Silva, e più precisamente una email alquanto misteriosa. Era una mail che rispondeva a una mia sollecitazione del tutto, come dire, improbabile. Ancora quando mi trovavo a Milano avevo intuito, facendo le mie ricerche e sfruttando la rete, in questo sì, bisogna dirlo che se usata bene al suo senso, la sua utilità, avevo trovato una vera da Silva, vera Ferreira da Silva, che alcuni indizi mi dicevano poter essere imparentata con il grande Virgulino Ferreira da Silva. E allora, visto che ogni lasciata è persa, ho provato a scrivere a quell'indirizzo. Passava una settimana, ne passarono due, solo dopo un mese mi arrivò la risposta, che così recitava: ci vediamo a Poso Redondo il 27 luglio, ti aspetto. Non sapevo chi fosse davvero quella persona, poteva essere uno scherzo, poteva essere qualsiasi cosa, ma la precisione di quella data era stata per me un indizio significativo a iniziare questa avventura che, appunto, come prima tappa aveva avuto gli sfolgoranti colori e come dire i rutilanti tamburi del Pelurigno di Salvador e i mercati della parte bassa di Bahia, oltre ai posti di polizia e alle biblioteche o i musei etnografici che avevo dovuto visitare. Non sapevo dov'era quel paese di Poso Redondo dove avevo ottenuto quell'improbabile appuntamento, e di nuovo corsi ancora da Milano sulla rete nel tentativo di capire verso dove io e quindi anche mio padre avremmo dovuto puntare in quell'universo variegato che è il Brasile. Saluto anch'io Bahia insieme a Stefano e, sempre più curiosa, mi dirigo con lui e suo padre in quei luoghi sconosciuti. Si sa, per chi si occupa di banditi, ha ben presente che le loro vite assomigliano a quelle dei santi. I fatti storici si confondono alla leggenda. Il mito ritorna nella storia con una potenza che è difficile da separare. E dunque la mia necessità era quella di raccogliere, in questo progressivo avvicinamento alle terre del Sertão e al mio fatidico appuntamento con questa vera Ferreira, la maggior parte dei documenti possibili, nel tentativo appunto di capire, se mai fosse possibile ancora, quale discriminazione potessi fare, da studioso, diciamo così, tra la leggenda, la narrazione popolare, l'iconografia legata alla storia di questo bandito che lui stesso contribuì a creare, e i fatti su cui invece avrei potuto basare una ricostruzione più oggettiva del fenomeno, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista antropologico. La tappa successiva sarebbe stata Aracaju, capitale del Sergipe, città sostanzialmente anonima, senza particolari attrattive, men che meno per il turista cosiddetto medio, ma per me archivi e scaffali avevano un interesse che non potevo assolutamente trascurare. Todo pé rapado tem uma neguinha, não tem a minha pra eu chamegar. Quero uma pequena, pode ser morena, pode ser branquinha, pode ser pretinha, pode ser lourinha ou cor de manteiga. Eu quero uma nega, mas deixa negar. Ci stiamo avvicinando al grande São Francisco, il quarto fiume più grande del Sud America con i suoi 3160 chilometri. Ora ha inizio la vera avventura. Risalire le sinuose curve del São Francisco significava attraversare uno o l'altro pittoreschi paesini la cui vita era scandita dalla cultura fluviale, da mercati che si accendevano e si spegnevano con l'arrivo e la dipartita delle merci, di famiglie intere che portavano i loro prodotti. Mi colpì in particolare nella città di propria la abbondanza di trappole per gamberi, un aggeggio che mai avevo visto in vita mia, forse perché detesto il pesce e quindi non mi piace occuparmi di nulla che riguardi quel tipo di portate. Ma comunque la scansione della cultura fluviale si innestava in questi meravigliosi colori di case più o meno ricche, ma sempre comunque dignitose, in cui si vedeva lo stile di quella cultura coloniale che nel bene e anche nel male aveva profondamente segnato la storia, le vite e le abitudini di quelle genti. Ricordo povere, dignitose, accoglienti. Era ogni volta un momento di poesia fermarsi a far benzina, perché non si poteva rifiutare ogni volta che si faceva al pieno il tradizionale cafesigno che ci servivano nel tinello retrostante un'improbabile stazione di servizio. Ormai era quasi una ritualità, non si vedeva l'ora di far benzina per fermarci, parlare con la gente locale che poi ti presentava il parente vicino, che poi ti dava un goccio di liquore, che poi ti dava la benedizione con cui si procedeva fino al paese successivo, sempre in direzione di quel mitico, ormai per noi almeno, Poso Redondo, a cui saremmo dovuti arrivare nel giro di qualche ora. Cafesigno dopo cafesigno, l'eccitazione sale. Sarà anche che ci stiamo avvicinando a Poso Redondo e a quell'appuntamento così insolito ricevuto via email. Poso Redondo è un villaggio, loro amano chiamarlo cittadina, quelli che ci vivono ovviamente, ma non è certo una cittadina nei termini in cui noi siamo abituati a usare questo termine. Pare che oggi conti circa 29.000 abitanti, all'epoca dei Cangaceros ne contava sicuramente molti meno, ma gli usi, i costumi, le abitudini che scandiscono le loro giornate non sono molto diversi. Talvolta la gente gira ancora armata, il macete lo si vede al fianco di molti uomini, loro dicono che a volte la vegetazione è fitta, soprattutto quando piove, ed effettivamente è così, ne ho avuto la prova, per cui occorre farsi largo col macete, ma non si sa mai che ogni tanto occorra anche in qualche altra circostanza un pochino più pericolosa. Arrivammo in quello che ho intuito essere il comune locale, entrai, mi trovai di fronte una scrivania in legno dietro la quale due signori conversavano con in mano un bicchiere di vino, e dietro di loro, appoggiato al muro, un fucile, lì così in bella vista. Non ho mai capito cosa voleva significare, ma qualcosa sicuramente avrà voluto significare. Beh, qualcosa avrà voluto significare, e certamente niente di troppo distante dalla storia di questi luoghi che stiamo piano piano conoscendo sulle tracce di Virgolino Ferreira da Silva. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nel Sertao con Stefano Morici. Stefano Morici ha ricevuto una email che lo invitava ad andare a Poso Redondo, paesino sconosciuto nel Sertao, in Brasile. A scrivergliela Vera Ferreira, la nipote del bandito Virgolino Ferreira da Silva. Stefano l'aveva contattata perché è interessato ad approfondire la storia del nonno. Adesso siamo qua, io, Stefano e suo padre che lo accompagna, perché da queste parti pare non sia molto consigliato andare da soli. Arrivati a Poso Redondo, Stefano chiede notizie di Vera Ferreira, che come il nonno è in giro per il Sertao. Gli dicono di lasciare il suo numero di telefono, che lei in qualche modo lo avrebbe ricontattato. Mi ha trovato, era lei era la nipote di Virgulino Ferreira da Silva, il bandito noto in tutto il Brasile e praticamente un mito nel nord del Brasile con il soprannome di Lampião. Era entrato nel banditismo tipico di quelle zone da giovane per una sorta di vendetta, gli avevano ucciso parte della famiglia, ma queste categorie di banditismo, il cosiddetto banditismo d'onore, non spiegava la potenza, diciamo così, esistenziale che ha trovato forma nella forma di vita di questi stessi protagonisti delle storie che andavo studiando. Ancor giovane l'avevano chiamato Lampião, non solo perché fin da subito ha iniziato a rappresentare, soprattutto per gli oppressi, quella speranza e quella voglia di ribellione che molti non erano riusciti a avere, ma anche perché, pur usando e pur avendo a disposizione armi rudimentali della Prima Guerra Mondiale, che arrivavano per mercati paralleli e corrotti ovviamente dalla Germania, era riuscito, legando al polso un fazzoletto e al tempo stesso l'altra estremità al cosiddetto cane del fucile, a studiare un particolare movimento del polso, per cui aveva trasformato quell'arma rudimentale di fatto in un'arma automatica che gli consentiva di ricaricare e dunque di sparare più rapidamente degli altri e dunque di illuminare le notti del Sertão col suo fucile, che come un angelo nero portava la giustizia che le istituzioni dell'epoca non garantivano, o perché corrotte quelle locali o perché assenti quelle federali, cioè quelle della lontanissima capitale, che era più un mito che una realtà per l'entroterra del Brasile. La storia di Lampião si fa affascinante come i luoghi in cui tutto è avvenuto. Bevo ogni parola che Stefano mi dice. Ormai anch'io mi sento parte di questa ricerca e i Cangaceiros mi sono simpatici. Vera mi trovò. Era lei, era appunto la nipote di Virgulino Ferreira da Silva, e felice del nostro arrivo mi disse che a tavola, dove mi ospitò, che il giorno dopo ci sarebbe stata una messa commemorativa nel prato di Maranduba, una distesa apparentemente sconfinata che io ricordavo essere il teatro di una delle più grandi imprese di questi Cangaceiros. Il mattino dopo, mettendo alla prova, a durissima prova, la nostra utilitaria francese, per strade che ormai non erano più strade, ma erano una successione senza soluzione di continuità di buche, fango, pozzanghere, nel quali proprio tutta la macchina entrava nella speranza di poterne riuscire, arrivammo a questo prato dove un prete molto attento ai diritti degli ultimi, esso stesso munito di un macete, ovviamente per la vegetazione, fece una messa in ricordo di questa memoria scomoda, l'aveva definita, memoria scomoda e memoria pericolosa, ovvero la memoria di un bandito che non era certo un esempio da seguire nella violenza commessa, ma un esempio da seguire sì nell'insofferenza con cui aveva scelto la morte alla fine dei conti, per non trattare su quella libertà che rendono gli uomini per l'appunto uomini. Quando ia terra ardendo com fogueira di São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Dopo la messa commemorativa in onore di Lampião, ci aspettano alcuni aneddoti, diciamo, appassionanti. Su quel terreno angusto, in mezzo alla caatinga, così si chiama la spinosa vegetazione locale, oltre a Vera, la nipote di Lampião, ho incontrato la figlia di Lampião, che mi ha regalato degli aneddoti fondamentali per comprendere quelle logiche anche esistenziali che hanno spinto queste figure ad affrontare queste scelte di vita certamente discutibili ma sicuramente tragiche nel senso tradizionale della parola. E allora la figlia di Lampiao, ormai ultra ottantenne, mi raccontò di come suo padre e sua madre si erano incontrati. Sua madre era una ragazza di una famiglia normalissima, ovviamente anche questa famiglia era vittima dei soprusi dei potentati locali, e la figlia era cresciuta nel mito di questo che loro percepivano come un combattente, questo combattente messianico che avrebbe dovuto in qualche modo incarnare nella terribile Sertao la seconda venuta del Messia, nelle logiche molto religiose di quegli stati del Brasile. E come poteva mancare la passione? Siamo sempre in Brasile, del resto. Attraverso un amico comune ottiene l'incontro con il grande Lampiao. Lei si chiamava Maria, nota in Brasile ormai come Maria Bonita, perché molto bella per le categorie estetiche del nord-est brasileiro di quegli anni. Ma Lampiao non aveva mai voluto donne nelle sue bande. Erano un ostacolo, erano un potenziale rallentatore dei loro rapidissimi e fugaci spostamenti, oltre che dei loro assalti alla polizia piuttosto che alle banche dei vari villaggi. Ma quella donna, quando lo vide, gli ha detto: io so benissimo chi sei e voglio venire con te. Non ci fu verso di dissuadere il peraltro perentorio Lampiao. Lei aveva deciso, e aveva deciso attraverso l'amore che poi lo legò per tutta la vita al suo compagno, a Virgolino Ferreira da Silva, aveva scelto la morte. Sapeva benissimo che il destino non avrebbe potuto avere altra soluzione che non la morte tragica, così come è stata, ma come racconta una ballata, quella che in Brasile chiamano il cordel, molto cantata e ripetuta perfino ancora adesso nelle scuole di quei paesi: decidiu ser a primeira cangaceira do sertão. Decise di essere la prima cangaceira del Sertão. Ignorando o destino, accompagnò Virgulino per la forza da Paissao. E ignorando quel destino, facendosi beffa più precisamente di quel destino di morte che sapeva le sarebbe toccato, decise di accompagnare Virgulino per la forza di quella passione che l'avrebbe fino in fondo legata all'uomo della sua vita, ma legata anche a quella libertà che in quei posti, sotto quelle latitudini, in quel periodo non si poteva avere se non facendo una scelta di morte e di violenza. E le donne alla fine ce la fanno, per amore, per passione, per destino. Não, morena, teu beijo é matador. Por causa deste beijinho morreram 30 de amor. Não, morena, teu beijo é matador. Por causa deste beijinho morreram 30 de amor. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Nel Sertão con Stefano Morici. Siamo partiti dalla famosissima Bahia e siamo arrivati allo sconosciuto Pozo Redondo, nel Sertão, in compagnia di Stefano Morici. Da lì abbiamo proseguito in questi luoghi un po' pericolosi ma appassionanti, come appassionante la storia del bandito sulle cui tracce ci siamo trovati. Virgolino Ferreira da Silva, detto Lampiao. Abbiamo conosciuto Vera Ferreira, sua nipote. Abbiamo incontrato anche la figlia, che ci ha raccontato di come lui e sua madre, Maria Bonita, si fossero incontrati e come il destino li abbia visti uniti anche nella morte. Abbiamo assistito alla messa in loro onore, ma le sorprese che questa gente ha in serbo per noi non sono finite. Infatti, nella piazza davanti al comune c'erano due moto tipiche degli anni 70, e due ragazzi di fronte a quelle moto stavano aspettando me e mio padre, anche loro muniti di macete. Avrebbero dovuto portarci ad Angicos, ovvero in quel impenetrabile sito che Lampiao aveva scelto come introvabile nascondiglio, che però si rivelò la fine della sua storia e la fine della storia di Maria Bonita, in quanto per via di una soffiata la polizia locale, ormai in rete con la polizia degli altri stati nel nord-est, era riusciti a sorprenderla all'alba di quel 28 luglio 1938. Stefano e il padre salgono su quelle moto. L'emozione è alle stelle. Stanno per essere condotti dove tutto è avvenuto, o meglio, dove tutto ha avuto fine. Il padrone della cascina di Angicos gli avrebbe fatto ripercorrere la strada che la polizia aveva fatto per riuscire a cogliere di sorpresa le attente sentinelle del grande Lampiao. E ora c'è una croce che ricorda quelle vite e quei morti che in qualche modo continuano a costituire il nucleo duro dell'identità di quelle genti che continuano a sognare e a sperare una libertà e una dignità non ancora garantite per molte di quelle popolazioni dell'entroterra. Ma sentire i racconti di Chico e degli altri due ragazzi che ci accompagnavano sembrava di rileggere Nertan Macedo, un famoso storico locale che così riproduceva la cronaca di quei tristi eventi. Era la notte tra il 27 e il 28 luglio del 38, pioveva a dirotto e il cielo si faceva sempre più scuro, come la pece. Si scatenò una tempesta e le acque del San Francisco, increspate, erano impetuose. I soldati, temendo il naufragio, iniziarono a spogliarsi, ammassando gli indumenti tutti in un lato dell'imbarcazione, che andava continuamente a sbattere contro le pietre che si trovavano nel letto del fiume. Ma alla fine, Macedo ci racconta, riuscirono a sbarcare, si appostarono in prossimità di questo affossamento dove i banditi avevano trovato rifugio e partì la prima delle raffiche. Era stato individuato nei vari luoghi dell'accampamento quale fosse quello del capo e le prime raffiche non sbagliarono il bersaglio. Era l'alba. Maria Bonita, così come di abitudine, stava preparando quel cafesigno cordiale che ogni mattina preparava per il suo compagno e per tutti gli uomini della truppa. Si voltò di scatto, vide il suo uomo a terra insanguinato, non ancora morto, si lanciò quasi per proteggerlo facendogli scudo, ma la seconda raffica fece fuori anche lei. La polizia si fece avanti e pare, così le cronache raccontano, procedettero immediatamente alla decapitazione di Virgolino Ferreira da Silva e anche di Maria Bonita, in realtà ancora agonizzante. E chorando enquanto a tua viagem meus olhos eram dois rios não te davam passagem, cabelos pretos anelados. Per me Maria Bonita è un mito. Col suo cafesigno di buon mattino e la passione per il suo uomo che l'hanno portata a fare una scelta così definitiva. Ma perché mozzare loro la testa? Quelle teste erano quelle teste sulle tracce delle quali io ero andato per saperne di più anche dal punto di vista scientifico, del trattamento scientifico che avevo subito al Museo di Bahia, dove era iniziato questo mio viaggio che era arrivato finalmente al cuore. Per me arrivare ad Angicos era come arrivare in una prospettiva al tempo stesso geografica, ma anche concettuale, dalla quale potevo capire e ho potuto capire che il cangaceiro non era solo un bandito d'onore, non era solo un ribelle e certo non è mai stato un rivoluzionario, perché non ha mai concepito un programma politico in nome del quale combattere. Ma tutto lì, i racconti di quella gente, i luoghi, le dinamiche dei combattimenti mi raccontavano di un Brasile che stava cambiando, di un Brasile che si stava anche drammaticamente modernizzando sulla base di quelle categorie del positivismo che si ritrovano ancora adesso nella bandiera del Brasile, ordem e progresso per l'appunto, e che tanto sangue hanno contribuito a versare, oltre che il bene che per altri versi hanno portato, ma mi hanno spiegato che quel banditismo era quello che poi io ho potuto chiamare una forma di banditismo esistenziale. Era una grammatica dell'insurrezione che anche all'interno di un linguaggio prettamente religioso trovava nella violenza l'unico spazio di libertà di una società ambigua e corrotta fin nel suo profondo. E per questo Lampiao, che questo aveva capito in maniera assolutamente geniale, ha saputo in vita costruire il suo mito, il mito di se stesso, l'immagine di se stesso, con un'abilità da grande comunicatore e mediatico, diventando l'idolo degli insorti pur senza mai essere, anzi l'idolo degli ultimi senza mai essere stato una sorta di Robin Hood. Pur non avendo un lieto fine, questa storia e di conseguenza questi luoghi che sono stati teatro di tanta violenta sete di giustizia mi hanno rallegrato la giornata. C'è bisogno di credere in qualcosa, sempre, ancora, comunque. Anche chi forse non ha avuto modo di avvicinarsi, così come io ho fatto, alla cultura del cangasso e alle esperienze storiche, drammatiche del cangasso, avrà forse conosciuto o sentito, soprattutto negli anni 60 e 70, una canzone, Mulher Rendeira. Il ritornello è piuttosto noto. In realtà questa canzone era stata composta in diverse versioni, a dire il vero, dallo stesso Lampiao per Maria Bonita, per quella donna che quel giorno decise «Vengo con te» e non ci fu niente da dire. Lampiao dovette decidere accoglierla nel suo gruppo e da quel momento anche gli altri cangaseiro ebbero il permesso di poter avere con loro le loro compagne. Peraltro che si dimostrarono abili con i fucili e le pistole oltre che con coltelli e maceti. Questa canzone è stata poi riprodotta e cantata da tantissimi autori di quelle terre, ma la versione forse più straziante e commovente al tempo stesso è quella cantata da Volta Seca. Volta Seca, mi spiega Stefano, era il più giovane dei componenti della banda di Lampiao ed era anche musicista. Infatti, finché ha potuto, ha mantenuto viva la memoria del cangasso e del sertão. Ecco, la versione più commovente di Mujer Rendeira è quella cantata da Volta Seca, prosegue il mio compagno di viaggio, che fu testimone diretto di quel grande amore che dalla vita alla morte in quel sogno di libertà unì Virgulino Ferreira da Silva alla sua amata Maria Bonita. Grazie Stefano per aver condiviso con noi questa avventura. Ora Stefano Morigi è in libreria con School Rocks, la scuola spacca, edizioni San Paolo. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar o fuzil de Lampião. Tem 5 laços de fita no lugar que ele habita.